fatti, la storia e la memoria dell'economia di Dino Pesole. Questa sera, cari ascoltatori, torniamo indietro agli anni Ottanta del secolo scorso per parlare di un personaggio politico di primissimo piano, di cui proprio nei giorni scorsi sono stati rievocati 20 anni dalla scomparsa. Stiamo parlando di Bettino Craxi, leader del Partito Socialista Italiano e presidente del Consiglio dal 1983 al 1986. Ne parliamo non per ritornare sull'epilogo della sua esperienza politica dopo Tangentopoli, l'esilio ad Hammamet e la morte avvenuta il 19 gennaio del 2000, quanto per parlare delle scelte di politica economica adottate dal governo Craxi e della situazione economica di quegli anni, anni di alta inflazione. Di particolare importanza fu l'approvazione del decreto che bloccò la scala mobile, deciso dal governo Craxi nel febbraio del 1984. Ne parliamo con Renato Brunetta, economista parlamentare di Forza Italia, che negli anni che stiamo raccontando questa sera era consigliere del ministro del lavoro Gianni De Michelis. Benvenuto onorevole Brunetta. Buonasera a voi. Il 14 febbraio 1984 venne firmato il decreto di San Valentino, il provvedimento con cui il governo Craxi, il primo a guida socialista, intervenne sulla dinamica della scala mobile. Giovanni Spadolini era alla difesa, Bruno Visentini alle finanze, Giovanni Goria al tesoro, Giulio Andreotti agli esteri, Renato Altissimo all'industria e Gianni De Michelis era al Ministero del Lavoro. Giuliano Amato era sottosegretario alla Presidenza del Consiglio. L'obiettivo era frenare la spirale salari-prezzi per contenere l'inflazione che in quegli anni viaggiava a due cifre. Si intervenne sulla scala mobile che consentiva l'automatica indicizzazione dei salari all'aumento dei prezzi e dunque all'inflazione. Il cosiddetto protocollo Scotti del 22 gennaio 1983 aveva adottato alcune misure di contenimento del meccanismo automatico di adeguamento delle retribuzioni, stabilendo un nuovo valore del punto di contingenza. Il persistente incremento del costo del lavoro rispetto al tasso di inflazione programmato spinse il governo guidato da Bettino Craxi a operare un ulteriore contenimento, disponendo il taglio di 4 punti di scala mobile. Misura duramente contrastata dal Partito Comunista, che promosse un apposito referendum abrogativo svoltosi nel giugno del 1985, che si concluse con questo esito: 45,7% di sì all'abrogazione, 54,3% di no. Onorevole Brunetta, il suo punto di riferimento in quegli anni era l'idea di far diventare la politica dei redditi politica di sviluppo, cioè quale distribuzione ottimale dei redditi per massimizzare la crescita, e non semplicemente politica di controllo dei salari. Ci racconta come si giunse al decreto di San Valentino? Beh, si giunse innanzitutto perché si doveva rinnovare l'accordo Scotti. L'accordo Scotti aveva lasciato alcuni punti indeterminati, soprattutto sui decimali per quanto riguarda la contingenza, insomma tecnicalità, e quindi si riprese nell'ottobre del 83 a ragionare su un nuovo accordo, o meglio su una manutenzione dell'accordo Scotti, in cui si sarebbero dovuti risolvere anche questi problemi minuti. In realtà quello che si costruì, grazie al nuovo ministro del lavoro che era De Michelis, si costruirono le basi di un nuovo accordo che nessuno di noi sapeva che si sarebbe chiamato di San Valentino, perché fu il giorno del decreto, ma doveva essere un nuovo accordo di politica economica complessivamente inteso. E l'idea base era proprio quella della predeterminazione dell'inflazione. L'idea non era nostra, era di Modigliani, di Tarantelli, due grandissimi economisti, Modigliani premio Nobel e Tarantelli grande mio amico, grande maestro, ucciso dalle Brigate Rosse, tanto per calarci tragicamente in quei tempi. Io sentivo Tarantelli tutte le sere, gli raccontavo quello che stavo facendo al Ministero del Lavoro, ero il consigliere di De Michelis e anche di Craxi. L'idea era appunto quella di frenare l'inflazione, o meglio la spirale salari-prezzi, predeterminando l'inflazione stessa, o meglio ancora, predeterminando tutti i fattori di incentivo all'inflazione, vale a dire certamente i salari, ma anche gli affitti, ma anche i canoni, ma anche le tariffe, ma anche i prezzi amministrati, controllati, sorvegliati, quelli che allora venivano chiamati TARPAS, cioè tutto l'insieme dei prezzi che potevano in qualche maniera essere controllati, e in maniera tale da puntarli e farli convergere verso un obiettivo di disinflazione, in maniera da spezzare la spirale salari-prezzi. Certo. Era un meccanismo non facile, perché era controintuitivo, soprattutto sulla scala mobile. Attenzione, la scala mobile era un istituto contrattuale straordinario, sacrosanto, per difendere il potere d'acquisto dei salari. Solamente che la scala mobile, così come era congegnata, vale a dire a recupero del potere d'acquisto sulla base dell'inflazione pregressa, finiva con l'inflazione a due cifre a diventare un fattore di inflazione e quindi a incentivare, caricare la spirale, per cui non passava trimestre che non scattassero i punti di contingenza. I punti di contingenza andavano a compensare la perdita di potere d'acquisto, ma nel frattempo iniziava la spirale, perché i salari sono una parte pesante dei prezzi, di fatto, perché poi i salari vanno a formare il costo del lavoro, il costo del lavoro, certo, entra poi nelle merci, entra nei prezzi di tutti gli altri prodotti, e alla fine si formava quella che è stata chiamata appunto la spirale salari-prezzi. Ecco, onorevole, in un suo recente scritto lei ricorda che venne inviato, giovane economista, poco più che trentenne, a trattare con i rappresentanti dei settori economici con tariffe e prezzi amministrati, controllati, sorvegliati. Beh, come andò quell'incontro? Andò malissimo, nel senso che io andai lì, forte della teoria, forte di Modigliani Tarantelli, forte della consapevolezza, ero un giovane professore di economia del lavoro, per dire: guardate che se siamo tutti coerenti e convergenti e cooperativi sulla base della disinflazione, vinciamo la disinflazione, cioè vinciamo la spirale, tagliamo la spirale salari-prezzi. E loro invece giocavano al contrario, cioè dicevano: ah, ma tanto non ci riuscirete mai, i salari andranno al 25-30%, gli altri input andranno al 25-30%, l'energia andrà al 25-30%, noi chiediamo quindi l'aumento tarifario al 25-30%, cioè giocavano contro la strategia cooperativa. A chi gli dice: guardate che non funziona così, e noi siamo il governo, io a 34 anni sono il governo e vi dico che non vi aumenteremo le tariffe più dell'inflazione programmata, mi ricordo allora era il 10%. Sì, era altissimo. Mi guardarono male, quasi non mi salutarono, me ne andai, e però per decreto l'incremento tarifario al 10, con grandi proteste naturalmente, minacce: allora non facciamo gli investimenti, allora non facciamo le manutenzioni, sempre i soliti ragionamenti ovviamente. Il risultato è che tutto questo fu portato su tutti i prezzi, sorvegliati, consigliati, i cosiddetti TARPAS, era questa formula astrusa, acronimo astruso, che era tutti i prezzi che da allora poi furono un pezzo alla volta smantellati. Il risultato quale fu? Che sulla base dell'accordo che riuscimmo a fare quella famosa notte, di uno scambio di politica economica straordinario all'interno del Consiglio dei Ministri con Craxi, che non si era molto interessato dell'intero accordo, dell'intera procedura, delle tecnicalità, però ebbe il guizzo del grande leader, alla fine portò Visentini a fare lo scambio con il fisco e con l'equo canone, si venne bloccato e L'accordo passò e riuscì a bloccare l'inflazione fondamentalmente poi negli anni successivi. Sì, siamo stati anche un po' fortunati, perché l'inflazione importata nel frattempo si era ridotta. L'inflazione importata è l'inflazione che deriva dalle importazioni delle materie prime, certo, che si raffreddarono anch'esse, però noi raffreddammo la componente endogena, la componente interna. E il PC, e la CGIL comunista non capirono, non vollero capire, chiesero il referendum, e noi a spiegare alla gente questa storia dell'illusione monetaria, cioè che è meglio avere meno scala mobile in busta paga, perché questo ti tutela il salario reale. Lei si immagina un ragionamento del genere fatto nelle piazze, nei comizi, nei consigli di fabbrica? Era molto difficile, però per fortuna il popolo capì. Popolo capì. E allora l'ultimissima domanda, abbiamo poco più di un minuto, riguarda oggi. Ecco, oggi avremo bisogno invece di un po' di inflazione, onorevole Brunetta, al contrario di quegli anni. Vede, l'inflazione, io lo spiego sempre ai miei studenti, è come la temperatura corporea. Sì. Deve avere un livello ottimale, che per il corpo è circa 37, 36 e 8, 37. Se va sopra, vuol dire che c'è qualcosa che non va, c'è qualche infezione, qualche alterazione, ma anche se va sotto, certo, c'è qualcosa che non va. Oggi siamo al sotto, vale a dire inflazione troppo bassa. Noi dovremmo avere un'inflazione attorno al 2%, che è considerato il livello di inflazione ottimale, perché il sistema funzioni fisiologicamente e ci sia metabolismo positivo. Certo. Se c'è inflazione bassa, troppo bassa, vuol dire che i consumi sono minori di quello che sarebbe necessario e che la tenuta del sistema, il metabolismo del sistema è freddo, e quindi vuol dire che le cose non vanno, non c'è crescita effettiva, e il risultato è che c'è disoccupazione, basso utilizzo dei fattori produttivi, e il sistema è malato. Il sistema è malato tanto, certo, con la febbre, tanto senza febbre, con sistema troppo freddo. Bene, onorevole Brunetta, noi la ringraziamo molto per essere stato con noi e averci aiutato a capire quel che accade. Mi faccia solo dire una piccola cosa. Certo. Allora avevo 34 anni, ho fatto un po' di storia. Ma non lo sapevo che facevo la storia. Beh, certo. Mi sono riflettuto solo scrivendo quell'articolo e nel corso del tempo del dopo. Ma è sempre così, ed è bene che sia così. Bene, allora grazie ancora. Io ringrazio Alessandro Chiappini in regia, Luca Cremonese in redazione. Buona serata a tutti. Alla prossima settimana. Arrivederci.